pizza, pure la pizza, pure la pizza, pure la pizza. Ecco questa pure la pizza, marra marra vera. Ecco questa pure la pizza, pure la pizza, pure la pizza. Ecco questa pure la pizza, marra marra vera. Ecco questa pure la pizza, pure la pizza, pure la pizza, pure la pizza, marra marra vera. Ecco questa pure la arra vera.